l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa, in diretta dagli studi di Milano di Radio 24, il nostro appuntamento settimanale per raccontare un'altra Europa. Oggi andremo in Inghilterra per scoprire Lega Day, una strana giornata sportiva. Andremo in Bulgaria per incontrare una rockstar che vuole diventare il presidente della nazione. Andremo a scoprire un'esperienza di turismo sociale alle porte di Parigi, però lo sapete, in collaborazione con Euronet, il nostro network al quale apparteniamo, network europeo di tante radio. Ogni settimana scegliamo un argomento comune, perché l'Unione Europea non è solo politica, non è solo economia, ma sono anche altre scelte che incidono con la nostra quotidianità. E il focus di questa settimana va su un tema importante, che è quello della donazione degli organi. Proprio oggi, proprio in questi minuti, a Glasgow, in Scozia, sta iniziando un importante simposio europeo. E per capire quello che è lo stato all'interno dell'Unione relativamente al sistema di donazione, abbiamo invitato il direttore del Centro Nazionale Trapianti, il professor Alessandro Nanni Costa. Buongiorno, professore. Buongiorno a voi. Grazie, intanto so che sta iniziando lì, vero, il vostro... Sì, sta per cominciare. Che cos'è? Cosa vi trovate, sì, per fare il punto? Questo è un congresso europeo, sì? sulla Società Europea dei Trapianti d'Organo, e sta per iniziare il primo meeting organizzativo della società, nella quale come italiani abbiamo una parte importante e significativa. Ecco, perché c'è ci sono direttive, ovviamente ci sono regole comuni, o si sta cercando di arrivare a regole comuni per quelle che sono le procedure, per quelle che sono le politiche legate alla donazione degli organi? Sì, già da circa 10 anni gli Stati membri dell'Unione hanno deciso di lasciare le decisioni che riguardano un campo importantissimo della qualità e della sicurezza del sangue, quindi dell'uso del sangue, dell'uso dei trapianti di cellule e tessuti e dell'uso dei trapianti di organi, a una direttiva europea, cioè sono norme che vengono dall'Europa. In questi 10 anni il Parlamento europeo e la Commissione europea hanno progressivamente fatto direttive, che poi ogni Stato membro dell'Unione deve recepire e fare proprie, su questi temi. Quella degli organi è stata conclusa nel luglio del 2010 e quindi si lavora sia a livello dei professionisti, com'è che è il livello che si rifà questo congresso, ma sia a livello anche dei governi, per avere una normativa uniforme a livello europeo sulla qualità e la sicurezza degli organi. In più c'è anche una specifica azione della Commissione europea tesa a incrementare le donazioni di organi. Ecco, ma oltre a queste direttive fondamentali per avere appunto politiche comuni, esiste anche una sensibilità culturale comune, o comunque lavorate anche in quella direzione? Certo, in questi 10 anni abbiamo imparato a lavorare insieme, per cui ormai, anche se è ovvio che ci sono temi come di carattere legale, come l'organizzazione dei trapianti, della rete dei trapianti, come le tematiche sull'accertamento della morte encefalica, che sono leggi nazionali e che non sono condivise a livello europeo, in realtà però i principi su cui si lavora, gli strumenti su cui si lavora sono identici, per cui siamo abituati a lavorare insieme, sia fra membri dell'Unione Europea, ma anche verso, per esempio, il Mediterraneo. L'Italia ha il segretariato di una organizzazione, di un network per i trapianti a livello mediterraneo, di cui fanno parte tutti i paesi della sponda della sponda settentrionale dell'Africa, l'Egitto, l'Algeria, la Tunisia e anche la Turchia, e diciamo c'è un'azione ormai comune ed è dall'Europa che parte questo stimolo. Ecco, e si può fare una fotografia di quello che è lo stato attuale in Europa? Aumentano, diminuiscono le donazioni? Ci sono lo numeri ufficiali? Lo stato attuale è che c'è una forte attenzione alle donazioni, che sono basate sugli stessi principi, che sono la donazione. Sì. Donazione vuol dire offerta disponibile gratuita. E quindi hanno tutti gli stessi principi, hanno degli ottimi risultati in Europa e l'Italia è assolutamente in linea. Il problema che c'ha tutta l'Europa è che c'è uno squilibrio fra pazienti in lista di attesa e disponibilità di organi. questo è il nostro problema, non è solo nostro, è condiviso a livello europeo, e su questo dobbiamo dire che l'Italia è, in termini di qualità e sicurezza, uno dei primi paesi anche di trasparenza dei risultati, in alcuni settori il primo paese dell'Unione Europea. Sì. E come donazioni siamo certamente nel gruppo di testa a livello dell'Unione Europea, cioè la rete trapiantologica delle donazioni dei trapianti è una rete avanzata. Ecco, quando si legge soprattutto sui giornali questi viaggi, anche a volte viaggi della speranza, a volte viaggi spettacolari, tra virgolette, degli organi, no, per essere trasferiti da un posto all'altro. Sono due cose diverse. Esatto, sono due cose diverse. Il viaggio della speranza ha senso, il viaggio della speranza oggi in Europa? È il viaggio di un paziente che cerca di trovare una soluzione al suo problema. In realtà, dobbiamo dirlo con chiarezza, è più facile trovare gli organi in Italia rispetto ad altri paesi europei, e anche perché ci sono delle normative per cui ogni paese tutela i propri pazienti, come facciamo anche noi, e quindi per un italiano è più facile fare i trapianti e sono più sicuri i trapianti in Italia. E i viaggi invece degli organi sono segni invece di cooperazione internazionale, perché c'è la disponibilità di un organo in un paese e non ci sono le condizioni in quel paese per usare l'organo, per esempio perché non ci sono pazienti adatti a riceverlo o non si fa quel tipo di trapianto, ed esistono dei network internazionali che fanno arrivare l'organo un paziente di un altro paese che ne ha bisogno e lo può usare. E lì già quindi c'è sono un viaggi molto diversi. No, assolutamente, e c'è coordinamento e funzionano, almeno da quello che ci sono dei coordinamenti regolari. L'Italia ha una struttura che si chiama Porta Europea, dove diciamo passano tutti gli organi che non sono utilizzabili in Italia, noi in realtà ne usiamo il 99%, e entrano in Italia quegli organi che da altri paesi, magari con i quali abbiamo specifici accordi, arrivano e vengono destinati alla rete italiana dei trapianti. Perfetto. Professore, un obiettivo che si dà per questo congresso, spera di uscire con cosa in mano? L'obiettivo di questo congresso è, da un lato, valorizzare la rete italiana. Sì. All'interno dell'Unione Europea, e dall'altro lato poter aumentare, ovviamente a questo congresso ci saranno circa 300 professionisti italiani, quindi che la rete italiana possa acquisire quelle conoscenze che a livello internazionale consentono di migliorarla. Perfetto, in bocca al lupo, complimenti per il lavoro suo. Grazie. E di tutto il team, che insomma sappiamo essere difficile ma fondamentale. Buon lavoro, grazie ancora, molto. Salve. Europost-it. Idee giovani per Rio. Fate sentire la vostra voce al prossimo Summit delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, che si terrà a Rio de Janeiro nel giugno 2012, rispondendo alla domanda: cosa dovrebbero fare i governi per rendere lo sviluppo del nostro pianeta più sostenibile? L'autore dell'idea che otterrà più voti dagli utenti online vincerà un viaggio completamente spesato per Rio de Janeiro o New York per presentare la propria dichiarazione ai leader del processo Rio+20. Inviate le vostre idee a rioplus20somethings.ideascale.com. Quello che state ascoltando si chiama Svetlio Vitkov, è una rockstar bulgara e si è messo un'idea in testa, che è quella di diventare presidente della nazione. Antoniette, è traducibile questo testo o è meglio di no? Ma è meglio di no. Infatti. Ma non perché c'è qualche cosa di chissà quanto di osceno, ma perché non vale nemmeno la pena. Ho capito. Do il benvenuto ad Antoniette Nikolova. Ciao Antonietta, ben ritrovata. Lavoro in Italia come giornalista, come corrispondente della BTV, la maggior TV bulgara. E quindi, insomma, la voce ideale per parlare con lei di questo strano caso bulgaro. Insomma, sta raccogliendo le firme questa rockstar che... testi demenziali, vero? Nel senso che è uno strano personaggio dello scenario artistico bulgaro. Il personaggio è strano, però il fatto che una rock star oppure che un personaggio dello spettacolo si candida per presidente non è tanto una novità, perché anni fa c'è stato un comico che ha raccolto le firme, adesso non è soltanto lui che sta raccogliendo le firme, ma c'è anche una cantante jazz. Poi, insomma, in Italia abbiamo pure nel Parlamento personaggi di professioni varie, quindi non è tanto... Lui è stato promosso di un comitato degli utenti internet e delle comunicazioni, però ancora lì manca un qualche firma per depositare ufficialmente la candidatura. 7.000 sono le firme che sta tentando di raccogliere e vuole andare a pescare nel pubblico giovane, diciamo, poi i suoi fan e un po' anche quelli disgustati forse dalla politica... Pubblico giovane fino a 50 anni perché ha dei fan, diciamo, di un ventaglio di generazioni varie. Se è mai stato un suo concerto? Io purtroppo no. Questo purtroppo. Ma perché sto in Italia, no, perché sto in Italia, se no sarei curiosa. Ma in Bulgaria però possono sorprendere con i voti, perché i bulgari hanno dei voti strani delle volte. Volevo solo ricordare che quando hanno proposto una legge che doveva diminuire le tasse nel Parlamento, e la proposta era di diminuire le tasse al 17%, il Parlamento ha votato direttamente a unanimità per 10%. Perfetto, quindi... diminuire le tasse. Poi dall'altra parte invece per 3 volte non riesce a passare la legge per il divieto del fumo. Quindi il voto è un po' strano, le sorprese ci possono essere. Abbiamo caricato sulle nostre pagine in Facebook un paio di video con la rockstar che dà il meglio di sé sul palco, ma si parla di questo tentativo in Bulgaria o viene visto un po' così con interesse, simpatia e distacco? Assolutamente senz'altro. Però il protagonista principale, diciamo, di queste elezioni presidenziali ancora non è uscito, diciamo, il candidato serio, che dovrebbe essere il candidato del partito leader che sta al governo. E nel 2012 a gennaio saranno le elezioni, e perché non è ancora uscito? No, adesso è ottobre. A ottobre ci sono le elezioni e i candidati non sono ancora entro il 17 settembre devono... Sì, ecco un'altra anomalia. Ma perché? Nel senso, c'è una lotta intestina all'interno del partito di maggioranza o manca davvero un personaggio di spicco? No, non manca. Credo che è proprio un gioco politico, perché non volevano arrivare, diciamo, sfiniti con campagna elettorale durante l'estate, con le crisi finanziarie, con i mercati che oscillano. E perché oltre la candidatura seria di una ex commissaria europea, Meglena Kuneva, che veramente riscuote tanto consenso tra la gente, i candidati principali ancora non sono usciti. Insomma, c'è un suspense. Vabbè, quindi magari anche questa rockstar troverà il suo spazio, ci sarà, ci sarà anche da sorridere, durante la campagna elettorale. Una campagna elettorale divertente, musicale, diciamo. Penso anch'io. Grazie davvero, Antoniette, ci ritroveremo presto qui all'Altra Europa. Buon sabato. Ciao. Europostit. Babel Academy 6ª edizione. Caffebabel.com si trasferisce a Dubrovnik. Fino al 4 settembre 2011 il sito caffebabel.com tiene il consueto seminario estivo Babel Academy a Dubrovnik. Saranno 35 i partecipanti tra giornalisti, fotografi e responsabili delle redazioni locali di tutta Europa. Un'occasione per tirare le somme sul progetto Oriente Express Reporter, che ha permesso di raccontare storie dal Montenegro fino alla Turchia. E poi è arrivato il momento di parlare di futuro e di incontrare i principali collaboratori volontari e la rete dei team locali per concentrarsi sulla zona dei Balcani. Ci sarà tanto da leggere su caffebabel.com. Là où on fait attention à la marque de ses textiles, et même si on les achète au marché, on plaisante pas avec le style. Je viens de là où le langage est en permanente évolution, verlan, rebeu, argot, gros processus de création. Chez nous les chercheurs, les linguistes viennent prendre des rendez-vous. On n'a pas tout le temps le même dictionnaire, mais on a plus de mots que vous. Je viens de là où les jeunes ont tous une maîtrise de vanne, un DEA de chambray, tu ne répartis jamais en panne. Intelligence de la rue, de la démerde ou du quotidien, appelle ça comme tu veux, mais pour nous carotter, tiens-toi bien. On jure sur la tête de sa mère à l'âge de 9 ans, Se vien de là, canta Io vengo da là, Grand Corps Malade, un rapper francese. Je viens de là e il là è Saint-Denis, uno dei comuni più popolosi alle porte di Parigi, quella periferia tante volte etichettata come periferia violenta, come periferia dove cova un disagio sociale, una periferia dove l'integrazione non c'è, c'è solo voglia di violenza, c'è solo voglia di trasgressione. Saint-Denis invece è diventato campo di una sperimentazione, di un'esperienza molto bella e che sta diventando un'esperienza pilota anche per altre città francesi, perché i cittadini hanno preso in mano il loro spazio e hanno detto non è così, non è solo così la periferia che viene raccontata. Venite a Saint-Denis, ve la facciamo vedere noi, ve la raccontiamo noi com'è questa periferia. E hanno organizzato e organizzano per i turisti e dei tour sociali per portare in giro i turisti, i visitatori nell'altra Saint-Denis, quindi raccontare quella Saint-Denis che non viene magari narrata dai telegiornali, dai documentari, dai quotidiani. Un'esperienza bella, un'esperienza che ci racconta una delle persone che appunto fa da guida in questi particolari tour. Diamole il benvenuto a Geneviève Pellissier. Ciao Geneviève. Buongiorno. Buongiorno. Infatti mi fa pena quando sento queste parole, perché è giusto, Saint-Denis non è soltanto una città dove ci sono dei problemi e sfortunatamente non si deve parlare soltanto di questo, perché qui ci sono mille cose da scoprire e con i greeters è un modo di vedere la realtà, non quello che si vuole dire. E mi ha fatto piacere di sentire Grand Corps Malade, perché come me è una persona che ama la sua città e che la racconta. Visitiamo la città con persone dall'estero, con persone della provincia che vogliono vedere la vita quotidiana, come si vive dentro una città in particolare. E ho già mostrato la mia città a persone che venivano dall'Italia. Allora ho mostrato il centro, che è molto conosciuto, con la sua basilica, il suo mercato, ma posso anche mostrare dove abito, il mio quartiere, che si trova proprio vicino a Parigi, perché sono tante cose che si svolgono che la gente non può pensare a tutto quello che sta per venire. Geneviève, scusami, sì. siete volontari? Sì, naturalmente, sì. Infatti, i greeters non siamo guide, siamo delle persone che mostrano la nostra città, il nostro quartiere. Siamo volontari mm-hmm. e naturalmente non siamo guide che hanno fatto un corso particolare per un esame, tutto questo. Infatti, anche noi perché siamo in compito con le guide, perché noi parliamo con il nostro cuore, con quello che viviamo, la nostra realtà quotidiana. Greeter infatti è colui che accoglie, quindi c'è proprio sì. questa apertura, e anche gli stessi turisti preferite chiamarli visitatori, nel senso che è proprio un approccio diverso. Sì, noi li accogliamo come se erano qualcuno della nostra famiglia, come degli amici. Infatti ogni volta quando arriva il momento di partire, ho un po' il cuore un po' mi sento un pochino triste, perché sono sempre dei momenti molto forti. Certo, e Geneviève, però c'è il rischio opposto, nel senso che poi si fa vedere solo il lato bello di Saint-Denis, o comunque si cerca di mostrare no. la realtà per quello che è? No, comunque, guarda, la realtà... Qual è questa realtà? Raccontacela. Ecco, per me naturalmente ci sono dei problemi, ma guarda, i problemi esistono dappertutto. Il fatto che ci sono delle persone disoccupate, che ci sono dei giovani che non sapono che fare della loro vita, tutte queste cose sfortunatamente non è una cosa propria alla mia città. Naturalmente ci sono molti problemi, perché per esempio quando arrivano delle ditte che sono molto importanti, quando vengono per avere le loro sede qui, il mio quartiere si chiama La Piana, Saint-Denis, La Plaine, Saint-Denis, sì, arrivano con i loro impiegati, non è che danno lavoro alla gente di qua. Allora naturalmente problemi ci sono dappertutto e problemi infatti quando sono arrivata qui 24 anni fa ho pensato Madonna, ma che cosa ho fatto per arrivare in questo luogo? Dopo ho pensato guarda, se non ti piaci te ne vai, ma come io non potevo andare via ho pensato va bene, io faccio con il mio quartiere, con la mia città. E lo amo la mia città, amo il mio quartiere. Ormai in 24 anni ho avuto il tempo di fare parte veramente di questa città. Certo. E Genevieve, i turisti, i visitatori che vengono magari a Parigi però vogliono anche partecipare ai vostri tour e partecipano, che reazioni hanno? Cosa vi lasciano come feedback? Infatti, quando guarda come parlo anche inglese, ricevo persone che vengono fino di Singapore, degli Stati Uniti, del Canada, ma quando arrivano queste persone non mi parlano mai dei problemi, soltanto arrivano, scoprono quello che montro. Per il momento montro più il centro di Saint-Denis perché c'è il mercato, la basilica, queste cose molto importanti e conosciute, ma no. Le prime parole non sono all'intorno dei problemi, no, realmente no. Certo, insomma, mostrare intanto la realtà com'è, quindi la realtà reale, cercando di sottolineare anche quelli che sono gli aspetti positivi. Genevieve, per contattarvi c'è un sito, ha un nome l'associazione? Sì, naturalmente, quando dal momento che ho abitato qui mi sono interessata al suo sviluppo, lo sviluppo del quartiere. Sì. Poi abito un quartiere, quando sono arrivato nel 87 era veramente giù, poi è arrivato lo stadio del Stade de France, non parlo troppo, certo, di questo per voi perché è una storia un po' difficile, eh? 88, 98 la Coppa del Mondo, tutta sì, questa storia, conosciamo. Ma questo è stato lo sviluppo incredibile della città e ormai del quartiere anche, e ormai alla fine della mia strada si sta costruendo una nuova stazione della metropolitana. Ci sarà anche un istituto per le scienze umane e sociali e ci sarà verso, diciamo, tra 4 anni un campus universitario con Condorcet e ci saranno 15.000 persone. Infatti è come qui si deve trovare i gioielli di questa città. Gioielli che ci sono, ci sono moltissimi. Esatto, e voi li svelate. E Parisien du Jour è il sito www.parisiendujour.fr che abbiamo già pubblicato anche sulle nostre pagine in Facebook per avere tutte le informazioni e contattare i volontari, i greeter appunto che vi aspettano a Saint-Denis. Ciao Genevieve, grazie davvero per averci dato un assaggio del vostro importantissimo, stimolante lavoro. Grazie a te e a tutti i tuoi collaboratori. Grazie anche a te. Europostit. Un satellite tutto per voi. Bimbi dai 9 agli 11 anni, attenzione! Volete dare il vostro nome a un satellite? Allora cominciate a disegnare. I disegni più belli che avranno come tema lo spazio o l'aeronautica daranno il proprio nome ad uno dei satelliti che verranno lanciati a partire dal 2012 nel corso del programma Galileo di posizionamento globale. Basta scansionare il proprio disegno o fotografarlo e caricarlo entro il 15 novembre sul sito del concorso. Prendete i colori e andate su galileocontest.eu. L'altra Europa. Eccoci ancora qua con l'altra Europa, facebook.com/l'altra Europa, le nostre pagine che in Facebook che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti toccati, ma ci trovate anche su il sito di Radio 24, ovviamente l'altra Europa è radio24.it, il nostro indirizzo di posta elettronica. E vi ricordo anche il sito di Euronet, euronet.eu. che è il network di Radio Europea al quale apparteniamo, ma il sito è veramente un portale con aggiornamenti quotidiani su tutta quella che è l'attualità europea, con tutti i contributi anche della redazione di Radio 24, quindi insomma un punto di riferimento sempre più importante per chi vuole essere aggiornato e vuole respirare la cultura, la politica, l'economia europea. Noi cerchiamo altre sfumature, altri punti di vista, altre contaminazioni come quella che andiamo a scoprire ora, il calcio è un po' lo specchio, no? Della nostra cultura. Andiamo là dove il calcio è nato, cioè in Inghilterra, perché oggi è una giornata particolare. E non gioca la Premier League, è ferma come è fermo il campionato italiano, perché ci sono le sfide, le partite delle nazionali, e appunto questo sabato 3 settembre è dedicato al No League Day, cioè è ferma la Premier League e quindi c'è un invito a tutti i tifosi ad andare a vedere le serie minori, soprattutto quelle amatoriali, serie amatoriali dove partecipano anche squadre con importanti storie, poi magari hanno avuto dei problemi economici, squadre che sono fallite, squadre che erano blasonate invece ora sono un po' cadute in disgrazia, e anche squadre che sopravvivono grazie al contributo dei tifosi. E una di queste storie è quella del Chester, una squadra che dopo il fallimento è stata ricreata grazie al supporto dei sostenitori ed è diventata un po' il simbolo di tutto questo movimento. Per parlare di tutto questo abbiamo invitato un esperto, perché lui è uno storico, perché è uno storico appassionato di calcio e soprattutto di quanto il calcio vada a influire su quella che è la costruzione di un'identità collettiva di una nazione. Do quindi il ben ritrovato a John Foote. Ciao John. Ciao. Ciao. Come stai intanto? Va bene, grazie. Voi? Molto bene. Ma tu vai allo stadio ogni sabato ancora? Ogni tanto, però... La mia squadra è diventata molto difficile entrare, comprare un biglietto costa molto, un po' dall'altra parte di questo movimento di No League, proprio quelli che il biglietto costa da 50 euro in più, minimo, certo. Allora non è facilissimo andare. Ma ha fatto rumore questa idea della Non League Day? Sì, abbastanza, anche se... Sky e quelli che hanno comprato il calcio per tantissimi soldi non vogliono molto parlare di questi altri piccoli squadre perché loro non interessano molto. Ma sì, credo che c'è da un po' di anni c'è un movimento contro il calcio dei miliardari che ci hanno offerto sempre di più in questi anni. È un tentativo di ritornare a radici, a tornare alle piccole squadre, alle piccole stadi. E questo fa parte di questo movimento qui. Ci sono anche delle squadre, come hai detto tu, che sono formate proprio con questi principi di essere squadre di tifosi, di essere squadre piccole, dove si può anche vedere la partita da due metri e sentire i giocatori che urlano e così via. E questo sta prendendo un po' piedi, anche se quello del TV domina ancora. Certo, quindi non solo Manchester, diciamo, cioè c'è anche tutto. Adesso non so, non ricordo quale sia la tua squadra delle cuori, quindi magari. No. Ah, ok, perfetto, quindi ho rischiato di chiudere qui la telefonata. non solo queste squadre, ma tutto un mondo sommerso. John, ma in Inghilterra il calcio è ancora veicolo di costruzione di questa identità collettiva? Sì. Anche se sta cambiando molto con la globalizzazione, le squadre non cercano le tifoserie locali più, cercano tifoserie nazionali, internazionali, attraverso la televisione. Quando giocano nella Premier League, le partite sono viste in Cina, in Italia, in tutto il mondo, e questo locale sta perdendo identità. L'identità diventa assolutamente globale. Ho visto durante la rivoluzione in Libia dei rivoltosi con maglia del Liverpool, da Juventus, così via, no? È proprio cambiato. Allora questa identità nazionale locale, secondo me, sta andando via in questo senso che c'era nell'ultimo secolo. Certo, e quindi c'è un po' una riscoperta di queste squadre che nascono e sopravvivono grazie a una partecipazione collettiva, però sì, è un'altra cosa. E John, colgo l'occasione per parlare di stretta attualità. In Inghilterra si è parlato dello sciopero dei calciatori in Italia? Sì, si è parlato molto, con abbastanza stupore, perché il sindacato dei calciatori in Inghilterra è debole, non interessa molto, non ha un contratto collettivo, non interessa i diritti. Allora sarebbe stata una cosa inconcepibile qui, mentre quel sindacato in Italia ha una storia che va da 68 in poi, che ha questo contratto collettivo che in un certo senso è vecchio, in un certo senso è bello che c'è ancora questo contratto che prende anche i più ricchi e i più poveri dei giocatori. In Inghilterra non succederà mai questa cosa. Quindi insomma si guarda e non si capisce, diciamo. Oggi tu andrai a vedere una qualche partita di queste squadre minori? No, mi piacerebbe andare, ma sono bellissimi questi piccoli stadi. Cioè, io quando ero a scuola molti anni fa andavo a vedere una squadra che si chiamava Hendon, e aveva un pubblico di 200-300 persone, ma aveva quel suo piccolo stadio, anche i cori e così via, ma era bellissimo perché i giocatori dopo andavano al pub con le stesse cose. Allora, cioè, da questo tipo di cose, credo che l'esempio più importante di questo movimento è sempre quello di Manchester United, dove i tifosi contro i proprietari americani hanno fatto una squadra che non è male come squadra, che sta entrando anche nelle coppe, è proprio la squadra dei tifosi, e questi movimenti secondo me sono molto importanti perché attirano i tifosi veri, non quelli che vogliono solo vedere i giocatori comprati per milioni di sterline, come per esempio nell'esempio più che è Manchester City. Ok, eccolo, ce l'hai fatta a dirlo, vedi? Il Sassolino. Non hai un business, hanno soldi che non ha limiti, allora è un danno, credo, per tutti, no? Assolutamente. John, grazie davvero come sempre per la tua lettura, che è sempre bella e originale. Ciao e buon lavoro, alla prossima. Grazie. Ciao John, grazie. Ciao. Europost-it. Giovani traduttori, giovani cultori delle lingue, attenzione! Si apre la nuova edizione del concorso dell'Unione Europea Juvenes Translatores, aperto alle scuole superiori europee. La prova consiste nella traduzione di una pagina a loro scelta in una delle 506 possibili combinazioni linguistiche delle 23 lingue ufficiali dell'Unione. Il tema dei testi da tradurre quest'anno sarà il volontariato, proprio per celebrare l'anno europeo del volontariato. I lavori saranno giudicati dai traduttori della Commissione europea e i vincitori saranno poi invitati a Bruxelles nel marzo 2012 per la consegna dei premi. Ogni scuola ha tempo fino al 20 ottobre per l'iscrizione dei concorrenti sul sito web del concorso ec.europa.eu/translatores. Liebe Freundinnen und Freunde von GreenTunes, es ist mir eine große Freude als Vorsitzender von Bündnis 90 Die Grünen zu sagen, dass wir dieses Festival unterstützen. Es zeigt, dass man ganz offensichtlich in der Bundesrepublik Deutschland auch bei einem großen Festival wie der Popcom fleischfrei oder fleischreduziert leben und sich ernähren kann. Quello che state ascoltando è Cem Özdemir, che è leader dei Verdi tedeschi, turco, e l'abbiamo preso proprio come simbolo dell'argomento che andiamo a toccare, perché il quotidiano tedesco Taz è uscito con una pagina, con un grande titolo, e questo titolo era Nuova Germania, per celebrare i 50 anni, era il 1961 quando il cancelliere tedesco firmò un accordo con la Turchia sull'accoglienza dei lavoratori ospiti, quindi 50 anni di incontro, di fusione tra turchi e tedeschi, 50 anni importanti, e abbiamo quindi invitato ormai una delle voci ufficiali dell'altra Europa, lui uno dei giornalisti di TASS, diamole ben ritrovato ad Ambros Weibel. Ciao Ambros. Ciao Federico, come va? Molto bene, grazie. Tu? sto benissimo, grazie. Bene. Grazie intanto come sempre per la disponibilità. E, ci è piaciuto molto il vostro articolo, una bella scelta, nel senso che avete preso spunto da un anniversario per fotografare una realtà, la realtà di un incontro, di una fusione. E di che cosa? Se tu adesso dovessi fotografare quella che è la situazione del rapporto tra i turchi e i tedeschi in Germania, che immagine utilizzeresti? Ma utilizzerei l'immagine di una storia, di un successo, no? Anche se negli ultimi mesi si è parlato molto, anche troppo, solo dei problemi dell'immigrazione, addirittura la cancelliera tedesca Angela Merkel ha detto che il multiculturalismo sia finito. A noi del giornale ci sembrava semplicemente che si dovrebbe raccontare, diciamo, tutto, anche una volta, tutto il bene che questi 50 anni di immigrazione, non solo turca, anche italiana, spagnola, portoghese, hanno portato al paese, no? alla Germania. Mm-hmm. Quindi una storia di successo, secondo te, grazie a cosa? Grazie ai tedeschi, nel senso che sono particolarmente accoglienti e particolarmente bravi a integrarsi, o grazie alle politiche che sono state attivate? No, guarda, una vera politica di integrazione in Germania si fa da forse 10 anni. Se facciamo il discorso dell'immigrazione sembra un po' banale, ma dobbiamo sempre cominciare con quel detto dello scrittore svizzero Max Frisch, che ha detto abbiamo fatto richiesta di mandopera e sono arrivati degli uomini, no? Sì. Un discorso serio che questi mandopera, queste persone della Turchia non sono venuti qua solo per lavorare e poi tornare nel loro paese, ma che staranno qua e saranno cittadini con tutti i diritti della Germania. Questa realtà se ne discute qui forse da un decennio, no? Adesso si sta facendo una vera politica di integrazione, di dire finalmente agli immigrati siete benvenuti, non siete solo qui per lavorare, per dare la vostra forza all'economia tedesca, ma siete qui come cittadini, anche con la vostra cultura, e ci avete dato molto, dal cibo alla musica a molte cose, no? Grazie davvero come sempre, Ambros. La solita domanda che ti faccio ogni volta che ci sentiamo: hai qualche viaggio in Italia in programma? Sì, sarò in Italia a novembre. Sì? Per 3 settimane, perché faccio uno scambio vado a lavorare da Radio Vaticano. Ah sì? Fantastico, quindi ti fai 3 settimane a Roma? Sì, okay. sono contentissimo di poter andare a Roma. Proprio in novembre, che qui a Berlino si sta malissimo perché il tempo è proprio da odiare, no? Radio Vaticana, che tu conosci, ascolti? È uno scambio che organizza l'Istituto Culturale Tedesco, il Goethe-Institut. Uh-huh. È una collega di Radio Vaticano, poi dopo verrà dal nostro giornale. Perfetto, vi seguiremo sicuramente, perché ci piacciono sempre questi scambi culturali. Ciao Ambros, a presto, grazie ancora. Ciao Federico, ciao, ciao. Grazie per il... ciao, ciao. Ciao. E noi invece ora andiamo a Londra, e andiamo a Londra con Billy Elliot. Just one last question. Can I ask you, Billy, what does it feel like when you're dancing? Dunno. Sort of feels good. It's sort of stiffen that. But once I get going, then I like forget everything. Billy Elliot, il ragazzo che voleva fare il ballerino ma era osteggiato dalla famiglia. Paolo, quante volte ti hanno associato a Billy Elliot? Non ne potrai più. parecchie volte. Ciao, ciao. Bellissimo, ciao. Piacere. Insomma, no, funziona. In ogni puntata dell'Alta Europa ci piace raccontare storie belle di italiani che hanno scelto l'Europa per soddisfare i propri sogni e le proprie passioni, e ci è piaciuto molto il tuo cammino, che è partito da Reggio Calabria, ti ha portato a Londra. in punta di piedi, nel senso che è la danza, la tua passione che è diventata la tua professione. Abbiamo trovato la tua storia sul sito vogliovivere.com, abbiamo già pubblicato il link sulle nostre pagine in Facebook. Chi sei, Paolo, oggi? Ma io adesso sono un ballerino a 32 anni che sta lavorando per una compagnia londinese abbastanza conosciuta. Al momento mi trovo in Devon, non sono neanche a Londra, perché stiamo facendo una residenza coreografica un po' fuori, a 2 ore, nelle campagne del Devon. È una sorta di ritiro come quelli che fanno gli sportivi, diciamo, per iniziare la stagione. Certo. Noi si fa le residenze coreografiche, ecco, si parte, si inizia la stagione con una creazione nuova per, diciamo, concentrare le forze per l'inizio della stagione, ecco. Certo. Quindi sì. E quindi oggi sei quello, Paolo Mangiola, un ballerino apprezzatissimo, insomma, tour mondiali, una bellissima storia, che parte da Reggio Calabria, dove tu a 7-8 anni capisci che da grande vuoi fare il ballerino. Non è facile avere 7-8 anni a Reggio Calabria e voler fare il ballerino, ma credo che non sia solo il problema di Reggio Calabria, tra l'altro. No, in realtà è un problema, tuttora è un problema italiano, credo, nonostante tutti questi, lo star system che propone questi reality, no? Comunque rimane un problema. Un ragazzino a 7 anni, purtroppo i genitori non pensano di mandarlo alla scuola di danza perché per tantissimi pregiudizi. In realtà la danza è una disciplina bellissima, prima di tutto perché ti aiuta fisicamente, poi anche una disciplina mentale, cioè riesci costantemente a cambiare, a mutare te stesso, quindi è una ricerca, se vuoi, anche spirituale, diciamo. Però è davvero una disciplina forte, che dovrebbe essere, cioè dovrebbe, diciamo, investire un po' di più in Italia. Purtroppo non c'è. Mancano le scuole, mancano gli insegnanti, è tutto un sistema, diciamo, che è un po' addormentato, ecco. Ecco. Per fortuna a volte i sogni e la passione, no, vincono la realtà, grazie anche al supporto dei tuoi genitori che poi li hai convinti, ma grazie soprattutto al tuo talento. Hai potuto fare l'Accademia a Roma, prima in Germania, insomma un lungo percorso che leggendo l'articolo si può scoprire. E poi Londra che è il cuore dell'Europa, ti senti italiano, ti senti di Reggio Calabria, ti senti europeo, cosa ti senti oggi? Ma guarda, io me lo chiedono spesso queste cose qua, io mi sento, vabbè, ho una grande una forte origine italiana, quindi mi sento molto italiano, però è come, diciamo, ho preso questi cambiamenti, no? questo vissuto che ho avuto in Germania, questo vissuto che ho avuto in Danimarca, e tuttora l'esperienza londinese, cioè mi stanno costantemente mutando, quindi mi sento come una sorta di strumento che ha tutte queste potenzialità, no? che ha preso in tutti questi anni, quindi diciamo un europeo italiano / calabrese / londinese con un po' di Germania alle spalle. Ecco, una cosa bella che dici che nella tua intervista è: nella danza non serve conoscere le lingue e quindi diventa quasi tutto più facile, no? Questo vuol dire che la lingua della danza, cioè la lingua del corpo, va al di là dei confini. Assolutamente, guarda, la figata di questo lavoro è proprio questa, nel senso che un danzatore può essere giapponese, italiano, brasiliano, non è importante, l'importante è, prima di tutto, ovviamente il talento, no? E la passione che hai, però davvero puoi prendere la valigia e partire perché non hai nessun tipo di vincolo dal punto di vista proprio, diciamo, tecnico. Mm-hmm. Quindi questa è la grande la bellezza di questo lavoro, è anche questo, che proprio le compagnie con cui ho lavorato fino adesso sono tutte state compagnie internazionali, quindi in realtà poi entri nello studio, in sala, e hai 10 nazionalità differenti, quindi è anche un arricchimento personale giornaliero. Certo. Paolo, l'immagine del ballerino è di un uomo elegante, in punta di piedi, che guarda lontano, no? E mi piace prendere questa immagine e chiederti da questo punto di vista privilegiato, cioè di chi può stare in punta di piedi e può guardare lontano, tu da lì, da Londra, che Europa vedi? Ma io sto vedendo un cambiamento forte, sinceramente. Io sono positivo, cioè tendenzialmente sono una persona positiva e sono convinto che le cose stanno cambiando, sono convinto che le cose cambieranno. Dipende tantissimo da noi, dipende tantissimo dagli artisti che hanno lasciato l'Italia, che hanno deciso di fare questa esperienza europea, e però a un certo punto secondo me gli artisti devono un attimo rientrare, perché per dare dei messaggi forti, no? Delle testimonianze importanti. questo quello che sto vedendo io di potente. Sto lavorando per questo anch'io, nel senso che sto facendo questa scissione, questa mutazione tra la danza come performer e la danza come fotografo. Quindi, cioè, io lentamente come artista ho sento l'esigenza di dare dei messaggi importanti, però ci vuole purtroppo c'è tanta pigrizia in generale, in Italia soprattutto. Esatto. Ci vuole, secondo me, determinazione e tanta disciplina, ecco. Coraggio e non piangersi addosso. Grazie. Esatto, Paolo, grazie, complimenti. Ricordiamo Paolo Mangiola, vogliovivercosi.com per conoscere e leggere la sua storia. Ciao, in bocca al lupo per la tua carriera. Un grazie a Margherita. Ciao Paolo. Un grazie a Margherita Ina, a Giorgio De Luca che con me hanno scritto la puntata, a Peter Bescapè alla parte tecnica. Noi ci ritroviamo qua sabato prossimo, sempre alle 10, oppure in rete radio24.it o su Facebook. Ancora ciao da Federico Taddia.